falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi puntata particolare, piccante per certi versi, ma bene inserita nella cultura dei primi del Novecento. Parliamo di una bella donna che dipinge molti quadri, ha molti amanti, molte amanti, fa molti viaggi e si caratterizza anche per un due di picche passato alla storia, un due di picche dato a Gabriele D'Annunzio. Una donna indipendente, poliglotta, cosmopolita, ma con una forte disciplina interiore e professionale, ma soprattutto una donna trasgressiva. Tamara De Lempisca, pittrice, artista, protagonista del movimento Déco degli anni venti, che gioca con le regole della mondanità e ritrae un mondo fortemente erotizzato, come lei. La conosceremo meglio oggi, ma potremo ammirare le sue opere prossimamente in alcune mostre. The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing. Lover, where can you be? La vita di Tamara non è una vita normale, è una vita nomade. È perfetta per scriverci la sceneggiatura di un film dove si accavallano le bugie, la mondanità e i misteri. Il primo mistero di Tamara Rosaria Gurvik-Gorska riguarda la sua data e il suo luogo di nascita, perché lei ha sempre dichiarato, anche contro le apparenze, di essere nata nel 1902, ma nei documenti è riportata la data 1898. Ha sempre dichiarato di essere polacca, di essere nata a Varsavia, ma secondo alcune ricerche e secondo il certificato di matrimonio, invece è nata a Mosca, in Russia. La madre è polacca di origine francese, mentre la famiglia del padre si è trasferita prima in Olanda, poi in Polonia durante le guerre napoleoniche. Il padre Boris è un ricco ebreo russo, lei è la seconda di tre figli. Rimane orfana del padre molto presto, quando lei ha solo 5 anni. Si dice che il padre si sia suicidato. E Tamara cresce con la nonna Clementina, che le infonde un culto della nobiltà e dell'identità polacca. Forse per quello alla fine si convince di essere nata in Polonia. Negli anni di formazione scolastica c'è anche un periodo all'interno di un esclusivo collegio, sempre in Polonia, tra le stanze di un castello barocco. Ma perché Tamara inizia a confondere le idee e non racconta la verità su di sé? Sentiamo Luca Carlini, che è un saggista e un esperto d'arte. Beh, sì, se uno deve creare dei miti dovrebbe cambiare qualcosa della propria carta d'identità, anche perché pare che in tutta questa sua vita così nobile la carta d'identità che aveva da offrire fosse in realtà assai meno illustre, avendo un padre ebreo, essendo nato a Varsavia e non essendo una baronessa, una contessa, cosa che diventerà molto più tardi per matrimonio, non certo per ascendenza familiare. Tamara De Lempicka ha avuto una carriera come artista soprattutto mondana, a tutti gli effetti facendo ritratti a figure dell'alta società, per cui la sua biografia era importante. Ben pochi sono stati interessati alla biografia di Piet Mondrian o di altri artisti la cui opera riassume la loro esistenza. Nel suo caso invece il suo personaggio biografico ha avuto nella creazione della sua opera un peso molto maggiore. Beh, anche in questo lei precorre i tempi, perché oggi è uso comune tra le star raccontare bugie. Può aiutare a creare un mito e una leggenda. Certo, non aiuta chi, come Gioia Mauri, ha trascorso anni a recuperare documenti e reperti che dovessero ricostruire la vita personale e professionale di Tamara De Lempisca, quella vera. Ma è proprio Gioia Mauri ha curato la mostra dedicata alla grande artista, che si aprirà il 19 marzo a Torino. Una difficoltà che in qualche modo è stata posta da Tamara De Lempisca stessa a chi poi l'ha studiata da un punto di vista artistico, diciamo, la manipolazione di alcuni eventi. Ecco, per cui è stato molto complicato ristabilire la verità e le cose come sono realmente andate attraverso i documenti. Le faccio un solo esempio: la sua prima mostra tenuta a Milano nel 25 fu in realtà un grandissimo insuccesso. Esistono addirittura due articoli scritti da Carrà che sono una stroncatura, che avrebbero distrutto qualsiasi artista agli inizi. Tamara Dell'Empisca ne parlò sempre invece come di un grande successo. Quindi dipanare tutta quanta la storia eccetera è stato molto difficile. Altra cosa in cui Tamara precorre i tempi: una stroncatura che lei ritiene fondamentale, in positivo, nella sua carriera. E oggi ci sono tanti artisti che nascono da stroncature della critica. Tra i suoi momenti di svolta c'è l'anno 1911, perché c'è l'incontro che le cambia la vita. Siamo a San Pietroburgo, in una festa in maschera Tamara si presenta, ovviamente vestita da contadina polacca, con un'oca al guinzaglio, e lì incontra un avvocato polacco nobile di 22 anni, molto corteggiato dalle più belle donne della città. Si chiama Tadeusz Lempicki. I due si innamorano e Tamara convince suo zio ad autorizzarla a sposare il bel 22enne Tadeusz, e nel 1916 si celebra il matrimonio. Tra l'altro, se l'ha incontrato nel 1911 e lei dice di essere del 1902, vorrebbe dire che lei si è innamorata a 9 anni, e questo rende improbabile la sua tesi. Comunque, avviene questo matrimonio nella cappella dei Cavalieri di Malta a Pietrogrado, e sembra che in occasione del matrimonio lei conosca un diplomatico di cui si invaghisce. Quindi già, insomma, ci innamoriamo il giorno stesso del matrimonio, e racconta di aver avuto una storia con lui appena tornata dal viaggio di nozze. Santa donna. Di certo c'è che il 16 settembre nasce Marie Christine, detta Kisette, che è la sua prima e unica figlia, e Tamara, nella migliore delle ipotesi, ha solo 18 anni. Il palcoscenico su cui si muove la diciottenne Tamara è proprio San Pietroburgo. Qui trascorre lunghe notti e feste con balli in maschera a tema e frequenta molti artisti di quel periodo. Poi arriva il 1917 con la brutalità della rivoluzione bolscevica, le esecuzioni di massa, il mondo russo viene abbandonato da Tamara e da tutti, e lei va a Parigi e inizia a vivere in alcuni modesti alberghi della periferia parigina, cioè deve ricostruire da capo tutto. Lei, che è abituata agli sfarzi degli aristocratici russi, e si trova invece tra gli esuli e gli emigrati in Francia. Così tra il 1920 e il 1923 inizia a farsi conoscere come illustratrice di moda e finalmente, dopo la precarietà degli alberghi, riesce a trovare una casa. Ma che carattere ha questa donna? È un carattere molto complesso, multiplo. Un po' come la sua esistenza, così anche il suo carattere, e questo si rispecchia anche nella sua arte. Attraversa diversi periodi e nei diversi periodi affronta la storia dell'arte, ma anche la cultura popolare, con un rapporto costante anche con i mezzi più moderni, il cinema, la fotografia, la grafica pubblicitaria, per esempio. Però nello stesso tempo è un artista di antiche tradizioni, per cui studia la storia dell'arte ed è un'artista molto colta. Beh, sono tante le vite che vuole vivere Tamara, e una di queste è la sua vita da donna bisessuale senza pudore. Partiamo con una bella storia con una vicina di casa che sarà protagonista di molte delle sue tele, una bella ragazza, una modella che si chiama Ira Perrot. Siamo nel 1921 e nel frattempo lei decora gli arredi della sua nuova casa con lacche e oro. Inizia una scalata sociale, trova costante sostegno da parte della sorella, che negli anni precedenti l'aveva convinta a iscriversi a un'accademia d'arte. Il falco e il gabbiano. Siamo a Parigi, in Francia, negli anni 20. Tamara Lempicki sta proseguendo la sua ascesa artistica e sociale. Fa abitualmente uso di cocaina, lavora febbrilmente con un ritmo di vita che pregiudica la sua convivenza familiare, vive tra i salotti in cui ci sono personaggi come Joyce, Isadora Duncan, frequenta i futuristi francesi. Un episodio entrato un po' nel mito del 24, quando avviene un incontro molto particolare, per esempio un incontro con Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, e della dell'Empisca stessa, che sappiamo amare stare nella storia con la S maiuscola, e per farlo modifica anche un po' i fatti. È proprio lei che racconta che durante questo incontro in un caffè parigino i due decidono di andare insieme a incendiare il Louvre, intenzione che fortunatamente poi naufraga in un commissariato dove andranno a recuperare un'auto rimossa perché era stata parcheggiata in sosta vietata. La sua vita familiare è ovviamente molto burrascosa, perché il marito non riesce a tollerare le sue relazioni extraconiugali con uomini e donne, l'uso della cocaina, le notti trascorse tra locali e night a luci rosse. Insomma, è una vecchia storia. I compagni o le compagne dei grandi artisti faticano a accettare il fatto che un grande artista abbia esigenze diverse, licenze diverse, e che in qualche modo abbia un pochino un salvacondotto per una vita un po' più sregolata della media. Ma mi rendo conto che questo è difficile da accettare e che il mio può sembrare un giudizio di parte. E peraltro, quando è a casa, Tamara lavora anche di notte, ascoltando a tutto volume Wagner. Possiamo dire che quindi, insomma, il marito e la figlia Chisette non sono certo il suo principale pensiero. Da un punto di vista della maternità, diciamo che la considerò forse un po' un ingombro, nel senso che questa bambina, anche in seguito al divorzio che Tamara affrontò tra il 26 e il 29 con il primo marito, il papà di Chisette, in realtà passò tutta l'infanzia e l'adolescenza in un collegio, perché appunto la mamma era impegnata nella professione, e la mondanità non è che fosse una mondanità, diciamo, amata per se stessa, quanto, diciamo, i rapporti sociali che Tamara sapeva tenere in piedi molto bene. Mentre invece, diciamo, il rapporto, potremmo definirlo tra virgolette professionale, con la figlia fu meraviglioso, perché la figlia è la protagonista di alcuni suoi capolavori. Alcune delle tele più importanti e premiate in diverse esposizioni in cui presentò proprio questi ritratti di Chisette derivano da Chisette che fa la modella. Quindi, diciamo, il rapporto professionale fu ottimo, il rapporto madre-figlia pessimo, e la figlia stessa poi, quando Tamara era già morta, parlerà della mamma dicendo che in realtà aveva un killer instinct, cioè un istinto da killer, perché per lei importava soltanto il lavoro, e quindi tutto quello che era il mondo degli affetti che le giravano intorno in realtà erano subordinati al proprio lavoro. Beh, quindi, insomma, deve essere un bell'incubo avere una madre del genere. Nel frattempo siamo nel 1925. Tamara espone a Milano una sua prima personale con 30 dipinti, 18 disegni, in uno spazio gestito dal conte Castelbarco, che è molto amico di Gabriele D'Annunzio. Ed è proprio attraverso questo contatto che in Tamara scatta il desiderio di fare il ritratto a quell'uomo, a Gabriele, che ormai è anzianotto, però è un letterato, è uno scrittore, un soldato, un eroe, uno dei personaggi più importanti di quell'epoca. D'Annunzio è un mito e Tamara è una cacciatrice di celebrità, e quindi entrambi hanno interesse a frequentarsi. Nell'inverno del 26 c'è un soggiorno di Tamara di 10 giorni nella residenza di D'Annunzio, il vittoriale di Gardone. Ma che personaggio è D'Annunzio? Sicuro, intorno alle donne ha determinato un intero mondo basato su una tecnica di seduzione continuativa, opere letterarie dedicate a queste signore fino alla sua età molto anziana. E il gioco era quello sostanzialmente del pigmalione: prendere una donna che al limite era già sposata, aveva dei figli, rovinarle la vita e trasformarla in una creatura dell'immaginazione. Un nome diverso, diverse risonanze, forse una diversa pettinatura, diversi abiti. Tutte le signore che passavano nel suo mondo venivano cambiate di segno e senso. Da lì anche il gioco evidente di tentare di sedurre anche le signore a cui piacevano le signore. Tamara certamente non è l'unica, insomma, nel mondo dell'annunzio c'è stata una pittrice lesbica straordinaria, anche lei pittrice mondana, come Roman Brooks, che ha avuto D'Annunzio come unico compagno per un breve tempo. Il gioco era quello di una vera e proprio harem di tutte queste signore a cui il vate, come amava essere chiamato, cambiava in qualche modo, tramite la sua immaginazione letteraria, l'identità. Quindi, come ci dice Carlini, Tamara va al Vittoriale per una precisa curiosità mondana. Pensa che il rapporto con D'Annunzio possa essere utile per una consacrazione definitiva nel mondo dell'arte e della cultura. Ma questa operazione pubblicitaria riesce solo in parte. D'Annunzio, dal canto suo, ha il desiderio di sedurla, aggiungere una nuova conquista alla sua lunghissima collezione di donne più o meno celebri. Ma chi sei tu? Barbara? Elvira? O Medusa? Io lo domando a te. Viviamo una realtà o una stupenda finzione? Una bellissima e tremenda realtà. Io ti appartengo, in ogni momento, completamente. Se solo potessi averne certezza. Sono geloso dei tuoi pensieri, addirittura. A volte vorrei che tu morissi. Così morirei con te. Viviamo, invece. Però tu non mi lasciare. Ti prego, non andartene. Perché, vedi, io ho tanta paura. Beh, direi che tutti i playboy di oggi dovrebbero prendere appunti di fronte al corteggiamento del divino vate di D'Annunzio qui in un film del 1986, il film D'Annunzio di Sergio Nasca. Intanto Tamara sa che un ritratto di D'Annunzio le potrebbe fare una grande pubblicità a livello europeo, ed ecco cosa la dell'Empisca gli scrive in una delle tante lettere del tempo. Volete che passi anche da voi? Io ne sarei felice. E voi? Vi invio, mon frère, tutti i miei pensieri, quelli buoni e quelli lascivi, quelli cattivi e quelli che mi fanno soffrire. Quindi inizia questa schermaglia, perché lei comincia a ingolosire il poeta, e quindi si narra di lunghe notti di gennaio, dove Gabriele D'Annunzio, che ormai si è ritirato da tempo a Gardone Riviera ed è non più giovane, malandato, basso di statura, insomma D'Annunzio non era un Adone, questo come dire aumenta il suo merito visti i risultati, lui cerca di inseguirla e di conquistarla, mentre lei gli si nega fino a deriderlo. I racconti dettagliati di quell'incontro e degli altri avvenuti tra D'Annunzio e le sue donne si trovano in un diario che per anni ha tenuto la sua cameriera personale, Emile Mazoyer, di origine francese. Lei scriveva ogni dettaglio e registrava tutto quello che accadeva tra i corridoi e le stanze del Vittoriale. E la cameriera scrive: Tamara fa la civetta ma non si concede, e adducendo svariati motivi come il timore per la sifilide, il classico mal di testa, oppure perché dice di non sentirsi pronta, fino ad arrivare a insultarlo, definendolo orribile nano in uniforme. E il comandante, il divino vate, comincia a irritarsi perché nonostante l'aiuto di vari espedienti, dal giretto in automobile a quello in aeroplano, a alcuni assalti a sorpresa, tutti innaffiati da ottima cocaina, non riesce a conquistare Tamara, e la cameriera non le risparmia offese, definendola una cammellona. E dunque il risultato di questo soggiorno è una sconfitta per entrambi, perché Tamara non riesce a realizzare il ritratto di Gabriele D'Annunzio, che naturalmente prima vuole, come dire, passare alla cassa, e lui viceversa non riesce a segnare la pittrice Tamara tra le sue conquiste. Una sconfitta. D'Annunzio, che è ormai da tempo alla fine del suo periodo più glorioso, confinato com'è al Vittoriale, morirà nel suo esilio dorato nel 1938. Tamara ha un'altra sorte invece, perché raggiunge comunque anche lei la celebrità, diventando uno dei pittori principali dell'Art Deco. Sentiamo che opere della Lempisca sceglierebbe l'esperta d'arte Gioia Mauri come esemplificative di quel periodo. Sceglierei alcune opere legate per esempio alla nostalgia, che soprattutto fino alla prima metà degli anni 20, 26-27, trapela nei suoi quadri del mondo russo. Quindi per esempio c'è un bellissimo dipinto che è anche in mostra a Torino, titolato proprio Ballerina Russa, con il caratteristico copricapo che è raffigurato anche nel dipinto di Bruegel, oppure nella ritrattistica ufficiale di corte già nell'Ottocento in Russia. Se vogliamo parlare invece per esempio della seconda metà degli anni 20, sicuramente un capolavoro eccelso è La Bella Raffaella. Esistono almeno 4-5 dipinti dedicati a questa modella, ma ce n'è uno in cui è raffigurata di scorcio, che è molto importante anche perché rivela lo studio che Tamara De Lempisca fa per esempio nel raffigurare la figura umana e in particolare il corpo femminile nudo. I Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la avventurosa vita di Tamara Lempisca, vita anche molto intrigante, piccante. Lei amante dei cappelli con la veletta, con il volto sempre pallido, poco esposto al sole, abiti con spalle larghe, il rossetto marcato di colore rosso acceso, un gran gusto per gli accessori, guanti attillati e tacco alto. Questa è Tamara De Lempisca, una vera femme fatale. Dopo l'esperienza del Vittoriale in Italia, il suo incontro così turbolento con Gabriele D'Annunzio, lei va via dal Vittoriale senza il suo ritratto e D'Annunzio rimane al Vittoriale senza essere riuscito a concupirla. Intanto torna a Parigi e c'è un marito che ormai è molto stanco di lei e della sua vita eccentrica. Tra l'altro il marito Taddeus intanto si innamora, direi per sua fortuna, di un'altra donna, Irene Spies, durante un suo viaggio in Polonia, e vuole chiudere con la moglie, e questo evento manda in crisi Tamara, perché è sempre stata indipendente e libera, però evidentemente aveva voglia di avere un marito che l'aspettasse a casa. Lui non molla e alla fine i due divorziano. Siamo nel 1928, come sempre a soffrirne, a farne le spese, come si suol dire, sono i figli. Infatti la figlia Kisette viene messa a studiare in un collegio. Nel frattempo Tamara partecipa a alcune esposizioni con i primi ritratti della figlia e della modella Raffaella e incontra l'uomo che diventerà il suo secondo marito. Diventa l'amante del barone Kufner, sostituendo la ballerina Nana de Herrera. Il barone sposato è un ricco proprietario terriero, ebreo di nobiltà austro-ungarica, e ha un bel castello di famiglia vicino a Breslavia, niente male. Sono anni ricchi di relazioni amorose, di esposizioni pubbliche, mostre, buone critiche, eppure lei cade in depressione perché l'ex marito si risposa. Però nonostante ciò lavora senza sosta, e quando la moglie del barone Kufner muore, lui le chiede di sposarla, e Tamara dopo qualche mese decide per il sì. Il matrimonio viene celebrato il 3 febbraio del 1934 nella casa di Zurigo, con un bel viaggio di nozze in Egitto. Il matrimonio è per Tamara una sicura sistemazione sociale e economica. Tra i due esistono accordi precisi, secondo i quali ognuno ha la massima libertà sessuale. Someone to bring me out, someone to let me in. Primo settembre 1939 i nazisti invadono la Polonia. Pochi giorni prima la figlia Kisette è rientrata da Varsavia a Parigi, e intanto i coniugi Kufner entrano negli Stati Uniti l'11 settembre con un volo Lavana-Miami. Forse hanno documenti falsi, entrano come cittadini ciechi, dichiarano di volere risiedere in California, si recano a New York dove iniziano le pratiche per fare espatriare i rispettivi figli. Ma già quell'anno Tamara si era fatta conoscere uscire aveva esposto, non con grande successo, a New York. Ma Tamara negli Stati Uniti non è solo pittrice, e viene vissuta come un modello di eleganza e bellezza. Le riviste patinate le chiedono consigli, una sorta di odierna personal shopper che fornisce consigli di moda e di cosmetica alle grossolane donne americane. Quando lei va in America, molti articoli sono proprio improntati sui consigli che lei dà sull'eleganza. I giornalisti parlano di lei come della donna best dressed, meglio vestita di tutta Parigi, quindi già con questa aura, diciamo, di eleganza. E quindi escono una serie di articoli in cui lei insegna proprio, diciamo, tra virgolette, come indossare un cappello, come scegliere un abito a seconda della propria fisionomia o della propria età, per esempio. È tutta una, diciamo, un'attività parallela che avviene soprattutto in America. All'epoca la bellezza, l'industria della cosmetica parlava polacco in qualche senso, era in mano soprattutto a personaggi polacchi, e come appunto era Tamara di origine, e pensiamo solo a Elena Rubinstein, che era di Cracovia e che ebbe una lunga amicizia con Tamara Dell'Empisca. Molti artisti lavorarono per esempio per l'industria della cosmesi e Tamara inventò per esempio, ecco, una nuance di rossetto. Quindi una donna eccentrica nel vestire, sempre molto femminile, una dark lady che anche in America non smette di avere un certo tipo di rapporto con il sesso, come ci spiega l'esperto d'arte e non solo, Luca Carlini. Era dichiaratamente bisessuale in un'epoca in cui questo non era certamente comune, e tanto più in America, dove di certi temi non si parlava, insomma. Anche a Hollywood si sa che è chiaro che Greta Garbo avesse fidanzate, era qualcosa di abbastanza noto, ma non era certamente argomento di discussione o di conversazione. Aveva una sua, credo, ampia libertà, condivisa anche dai compagni, mariti, fidanzati, fidanzate con cui nel corso della sua vita si è accompagnata. È chiaro che, come dire, Tamara Dell'Empisca è abbastanza nell'occhio del ciclone negli anni 20-30, poi la sua esistenza americana seguente, lei è una signora ricca che abita in Texas, ma è meno un personaggio pubblico di quanto non lo fosse stato a Parigi tra le due guerre. Poi insomma, Parigi forse era per lei il palcoscenico più adatto, non per caso è diventata famosa a Parigi, è stata riscoperta a Parigi dopo decenni di oblio. La vita in America procede tra alti e bassi, perché la sua sessualità compromettente, l'uso di droghe e le giornate trascorse tra personaggi glamour di Hollywood la rendono una delle artiste più discusse per la sua epoca. Intanto la figlia Kisette si trasferisce anche lei negli Stati Uniti, si sposa a Las Vegas, avvertirà la madre al telefono perché Tamara è troppo presa a organizzare una mostra per potersi interessare alle nozze della figlia. Insomma, sappiamo che è sempre stata una madre difficile. Beh, per forza, cioè, una donna così deve essere un incubo per una figlia. Credo che, come sempre, questi personaggi siano più facili da viversi dall'esterno che non dall'interno. È tutta una sorta di proposizione di un modello di eccentricità alla figlia, però alla fine, quando lei sta in America, è una sciura, una signora ricca che non è che poi faccia chissà quelle eccentricità, insomma. Beh, eppure Tamara Dell'Empisca è una donna strana. Quando diventa più anziana, forse per, come dire, paura della resa dei conti, è una nonna molto più assidua di quanto fosse stata da madre, e quindi i due nipoti Vittoria e Cristi verranno coccolati. Lei pagherà gli studi ai ragazzi nelle scuole private, viaggi in Europa, non solo si mette a cucire a mano i loro abiti, cosa che farà fino a che si sposeranno. Il 1961 è un anno di caduta per Tamara, perché all'inizio dell'autunno il barone va in Austria a caccia. Lei torna a New York e il 3 novembre il maggiordomo le annuncia la morte del marito avvenuta in nave durante la traversata del ritorno, con la salma che viene sepolta in mare. Iniziano delle diatribe ereditarie che guastano i rapporti con i figli e figliastri. In quell'anno a novembre fa una mostra in cui non esistono recensioni o critiche, viene ignorata, è una debacle totale a cui segue la decisione di non esporre più, e infatti per 10 anni non mostrerà alcun dipinto. Il suo grande ritorno è nel 1972 a Parigi alla Galerie du Luxembourg. Lei non ama definirlo una riscoperta, perché lei dice la sua notorietà non aveva mai conosciuto eclissi. Escono recensioni su diverse riviste in cui le si riconosce che incarna lo spirito del suo tempo e dove si parla di combinazione di modernismo estremo e purezza classica, anticipatrice dell'iperrealismo. Poi nel 72 avviene questa riscoperta, e quindi lei aveva 74 anni. Avviene la riscoperta dei suoi dipinti degli anni 20 e 30, che non avrebbe neanche voluto esporre perché li considerava appunto dipinti di altri tempi in qualche modo, no? Gli ultimi anni in realtà corrispondono alla sua riscoperta e va appunto in Messico, dove fa un po' delle stanche repliche di quelle che erano i suoi dipinti che in quel momento venivano rivalutati e richiesti dal mercato. Fu però un periodo non infelice da un punto di vista esistenziale e biografico, perché a Cuernavaca andò lì, viveva il suo ultimo, diciamo, compagno di vita, che era questo artista giovanissimo, che era Víctor Manuel Contreras, e passò appunto questi ultimi anni anche lontana da quelle che erano poi le diatribe familiari, soprattutto con la figlia. Buongiorno Valeria Palumbo. Buongiorno. Esperta di storia delle donne. Com'è essere esperti di storia delle donne? È come essere esperti della maggior parte dell'umanità, visto che siamo il 52%. Dunque, stiamo parlando di Tamara Lempisca. E volevo sapere come si diversifica Tamara dalle altre donne artiste del suo tempo. Tamara non è in realtà un'eccezione, perché in quel periodo essere eccentriche cominciava ad essere fortemente premiante. Dopodiché ha una personalità molto più forte di molte altre ed è una delle prime a saper creare delle mode che non sono ristrette solo ai circoli artistici. Il suo modo di vestire, la sua vita disordinata, i suoi amori misti da Susie Solidor, che ovviamente era una donna, agli amori invece eterosessuali, insomma aveva una varietà di vita che all'epoca anche le più esagerate non avevano. Devo dire che la stessa Tamara capì l'importanza del generare mode, tendenze, non solo come dire come effetto pubblicitario, perché uno può pensare si comportavano così perché questo faceva aumentare le vendite dei loro quadri. In realtà all'epoca questo ancora non era così importante come è importante adesso. Serviva invece a iscriversi per la prima volta nella storia, per iscriversi nella storia come personalità. Per le donne era evidentemente una scoperta, nel senso che questo fatto di fare di se stessi un'opera d'arte era già cominciato alla fine dell'Ottocento con gli uomini. Negli anni 20 e 30 diventa un fenomeno crescente anche fra le donne. A chi paragoneresti Tamara? Cioè, se dovessi pensare a qualche artista contemporanea? Allora, io oggi Tamara riuscirei a paragonarla a Madonna, nel senso che Madonna è una persona che ha saputo rinnovarsi in continuazione, e Tamara era particolarmente sensibile, come dire, ai mutamenti del costume. E l'ultima domanda, io a proposito di Madonna e anche di attualità, però mi viene in mente il fatto che le belle donne, ahimè, a un certo punto della loro vita cominciano a invecchiare. Come convive Tamara con il fatto di non essere più la donna bella che era da ragazza, ma con l'esigenza di continuare a voler essere un mito? Il momento della vecchiaia fu vissuto evidentemente come un dramma, non tutte lo vissero come la contessa di Castiglione, che aveva addirittura coperto di veli e di panni gli specchi. Tamara cadde in una depressione profondissima. Le ultime fasi della sua vita sono caratterizzate da questa depressione e poi da una conversione religiosa, che devo dire è un altro classico, per cui gli ultimi quadri sono quadri di intensa visione mistica. Quello a cui un lei po' di era paura più legata, per la morte, sì, e quello a cui lei era più legata è il ritratto della suora. La bella, eccentrica, elegante e trasgressiva Tamara si spegnerà nel 1980 in Messico. Nel testamento stilato lascia $50,000 alla sua infermiera, $100,000 all'orfanotrofio Little Brothers e il resto alla figlia. Non nomina il compagno Contreras perché lo considera già proprietario di metà delle sue opere, secondo un testamento precedente. Muore nella notte del 18 marzo, stroncata da difficoltà respiratorie. Avrebbe dovuto dormire con una maschera dell'ossigeno, che forse lei ritiene antiestetica, la trovano senza. Il 27 marzo il suo compagno e la figlia Kisette salgono su un elicottero, spargono le sue ceneri sul vulcano Popocatepeti secondo i suoi desideri. Ecco cosa rimane di quella donna nel cuore di chi l'ha studiata per anni e che ha curato la mostra di Torino, Gioia Mori. Il coraggio che ebbe come donna e come artista, e la volontà ferrea, la disciplina che in qualche modo governò tutta la sua vita e soprattutto, diciamo, la sua vita artistica. Il coraggio che le fece superare momenti complicatissimi, dalla ricchezza originaria vissuta a San Pietroburgo alla povertà dei primissimi anni passati a Parigi, al successo che le procurò veramente, le dico soltanto questo, nei primissimi anni 30 la grande crisi americana approdò in Europa e quindi ci fu anche una crisi per gli artisti e per il mercato dell'arte. L'unica che era esente, e questo lo dicono appunto alcuni giornalisti su alcuni articoli, era Tamara Delempisca. I suoi dipinti, si legge, vengono venduti a fior di biglietti di banca, e quindi seppe ogni volta risalire la china, ecco, anche da momenti molto complicati e molto difficili. La mostra su Tamara Delempisca sarà in programma a Palazzo Chiablese a Torino dal 19 marzo al 30 agosto 2015, con 100 opere esposte nelle sale del palazzo. Ci sono storie che spesso sono sconosciute, di persone che nella loro vita hanno saputo darlo quel colpo d'ala, hanno volato in alto e in qualche modo hanno lasciato un segno particolare, e con cadute e risalite. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci delle vite su cui puntare il microfono, scriveteci al falcoilgabbiano@radio24.it oppure su Twitter, Facebook, insomma, se volete sapete dove trovarmi. A domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Francesca Del Rosso.